Food Lab. Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Ebbene, noi a Mebius, il programma di scienza, insomma, li abbiamo assaggiati in onda con gli ascoltatori, abbiamo assaggiato grilli, cavallette. E quindi adesso a Food Lab, programma che vi racconta le nuove frontiere dell'agricoltura e della produzione di cibo, dobbiamo per forza riprendere il tema. E allora ci poniamo la domanda: gli insetti sono davvero una prospettiva nutrizionale del futuro? Federico, si fa presto a dire insetto, mi verrebbe da dire. Allora, siamo qui con l'autore del libro, un ebook che si chiama Si fa presto a dire insetto, che si può trovare su tutte le reti, insomma, solite digitali su cui trovare gli ebook. Qui con noi Marco Ceriani, benvenuto. Salve a tutti. Benvenuto, Ceriani. Ecco, lei lavora per una startup anche che si chiama Italbugs, che adesso racconteremo, insomma, quale sia proprio insetti italici, vorrebbe dire Italbugs. Italbugs, sì, esatto. Esattamente. Però dai, facciamo prima un'introduzione su che cos'è l'entomofagia, per chi non lo sa ancora. Che non è una malattia. No, infatti l'entomofagia è una brutta parola che in realtà significa utilizzare gli insetti per l'alimentazione, mi verrebbe da dire feed and food, cioè per l'alimentazione animale, ma soprattutto anche per l'alimentazione umana, visto che già 2 miliardi di persone lo fanno. Ecco, infatti questi sono i dati della FAO e sono dati prudenziali, visto che c'è un aggiornamento, perché è partita mezza Europa a consumare gli insetti, sia pur nella gastronomia di elite, sia pure con cibi particolari. Ne abbiamo sentito parlare proprio in occasione appunto di Expo sul padiglione olandese e così via. Però, allora, noi italiani non siamo preparatissimi, mi sembra di capire, sul tema, né sulla legislazione né sulla cultura. Però capiamo che ci sono tante persone che ne fanno uso, tante che si stanno affacciando. Addirittura tu hai citato la FAO, la indica come una risorsa alimentare proprio del futuro. Sì, diciamo che non siamo preparatissimi, però ci siamo dimenticati di un recente passato. L'Italia sul pacco da seta era la seconda nazione al mondo come produzione, e Leonardo da Vinci è uscito da poco un libro di ricette culinarie e citava 3 insetti come insetti edibili, ci sono nella Bibbia. Insomma, sono qualcosa del passato, del presente e certamente del futuro. Diciamo qualcosa su quelli che sono anche i valori nutritivi. Tu sei un ricercatore, quindi studi proprio la materia, quindi certo, ci puoi dare indicazioni su quanto siano a livello di proteine nutrienti. Sappiamo che sono alti questi valori, no? Sì, sicuramente gli insetti superano i cosiddetti animali da carne convenzionale, quindi suini, bovini. Diciamo che l'insetto ha un contenuto di proteine molto alto, quindi se parliamo sul fresco parliamo attorno del 30, sul secco andiamo 60-70%, dipende ovviamente da quello che mangiano, perché gli insetti sono dei convertitori molto veloci, visto che hanno un ciclo di vita molto breve, ma soprattutto sono degli ottimi convertitori. Noi per ottenere 1 chilo di carne da un bovino dobbiamo utilizzare circa 10-12 kg di vegetali, con l'insetto siamo quasi 1 a 1, perché non convertono nulla in energia termica, cioè detto banalmente, l'insetto se non ha il clima corretto muore e quindi non riesce a scaldarsi, ecco perché quando piove le zanzare non ci sono più. Parlando di futuro, insomma, gli allevamenti di insetti nel mondo esistono, possiamo immaginarli anche nel nostro paese? E qualora li immaginassimo, noi ci immagineremmo di trovare nel nostro supermercato gli insetti, cioè così, insomma, come fossero mele, oppure possiamo pensare anche a prodotti un po' più elaborati? No, infatti diciamo che questa è una bellissima domanda, perché tocca i 2 punti principali. Gli insetti sono degli animali assimilabili ai crostacei, perché hanno parecchi punti in comune, quindi in realtà è sbagliato paragonarli al bovino o al pollo, ma dovrebbero essere paragonati al gamberetto. Se noi utilizziamo un ciclo di allevamento e di produzione che rispetta le norme igienico-sanitarie, non abbiamo nessun problema. È chiaro che l'allevamento all'aperto, così come ci sono in Thailandia, che esistono circa 5.000 farmer, pone dei problemi a livello di sicurezza per quanto riguarda i metalli pesanti, gli inquinanti. Cioè, in quel caso si parla di allevamento intensivo, un po' come esatto, si farebbe da noi per i bovini. Esatto, se invece noi riusciamo a controllare, anche perché gli insetti sono piccoli, quindi il loro habitat, è chiaro che abbiamo molto meno problemi. Non è ipotizzabile io credo a breve, anche se è uscito adesso proprio per Expo, un sondaggio su 8 paesi e gli italiani non sono molto disposti a mangiare insetti, hanno un 44% contro un 60% dei tedeschi e un 62%. C'è ancora un po' dovevamo aspettarci. C'è ancora un po' quella cosa che fa un po' senso, ribrezzo. Però sicuramente come estratto, quindi come proteine in polvere, che poi ce le potremmo trovare nei cibi cosiddetti destrutturati come gli hamburger eccetera, è verosimile. Cioè tu pensi una sorta di farina e diciamo che la tua startup Italbugs sta lavorando un po' per questo, cioè state facendo ricerca dal punto di vista proprio molecolare per ottenere i più alti valori nutritivi da utilizzare poi eventualmente in elaborati tipo sì, farine. E poi scusa, sono miliardi gli insetti. Noi parliamo di circa l'80% delle specie animali che sono insetti. Diciamo che gli insetti edibili sono circa 2000. Il Belgio, per arrivare vicino a casa nostra, in Europa perlomeno, ha stilato una lista di insetti che non contengono sostanze tossiche o pericolose e quindi è su questi che si può lavorare, griglie, cavallette oppure le camole, qualcuno dice verme quando vengono citati, però insomma diciamo anche il bacco da seta aveva un utilizzo di questo tipo. Dicevamo, scusami Marco, che state lavorando con Italbugs proprio alla ricerca di come dire, molecole proteiche da utilizzare poi per elaborati, ad esempio farina, possiamo immaginare farina di grillo? Beh, certamente, diciamo che la sede di Lodi non è casuale perché Lodi è l'agrofood per eccellenza in Italia, uno science park tra i più avanzati in Europa, e questo ci rende diciamo più semplice e più veloce la strada e dalla ricerca di un cibo sostenibile ma anche sicuro, ecco. Questo progetto è un progetto scientifico ma è un progetto di buon senso e di buon gusto perché gli insetti sono buoni, utilizzati nel mondo proprio per la loro caratteristica di elevata palatabilità, ma sono buoni. Guarda, e dobbiamo dirti che li abbiamo assaggiati. Io e Federico li abbiamo assaggiati. In effetti hai ragione, c'è molta ritrosia, insomma, però. Dai, assaggiateli, vedrete no, che ecco, sanno un po' di gamberetto. Il punto è chiaro che dobbiamo ripensare un po' il concetto del ciclo alimentare. Gli insetti noi ne stiamo parlando per utilizzo umano, ma sicuramente sarebbero un cibo per animali. Perfetto. Grazie Marco Ceriani, ho l'impressione che ci risentiremo. Grazie a voi. Capito Federico? Farina di grillo, sarà quello che troveremo al banco del supermercato di fianco alla farina di grano tenero. Io però ho assaggiato i biscotti di grillo ed erano buoni. Per oggi è tutto, ci sentiamo alla prossima puntata di Food Lab.